GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli. Le emittenti televisive possono vietare la ritrasmissione via internet dei loro programmi da parte di un'altra società. Questa ritrasmissione infatti costituisce in alcune condizioni una comunicazione al pubblico delle opere e deve essere autorizzata dall'autore. Lo stabilisce la Corte UE di Lussemburgo in una sentenza relativa a una causa in cui varie TV commerciali britanniche si sono opposte alla TVC per la diffusione che questa realizza via internet e pressoché in tempo reale dei loro programmi. Dal 2008 direttiva ITPC è quella che impone le autorizzazioni per le attività industriali agricole che presentano una notevole potenziale di inquinamento. La situazione però, costi e tariffe molto elevati, procedure burocratiche per le autorizzazioni lunghe e complesse. L'Italia è il fanalino di coda nei tempi di rilascio delle autorizzazioni. Allora, ecco cosa si può fare. Secondo Amalia Sartori, eurodeputata di Forza Italia PDL, presidente della Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento Europeo. Noi abbiamo fatto nel 2008 questa direttiva IPPC che impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole che presentano un notevole potenziale di inquinamento, ma abbiamo ridotto, se vogliamo, i livelli decisori rispetto a questo, no? Devo dire che l'Italia sulla questione ILVA ha anticipato tutti in Europa e ha deciso di applicare in tempi ancora prima che diventasse obbligatorio questa direttiva europea del 2010. Vengono imposti un massimo di 150 giorni per l'autorizzazione, no? Che sono 6 mesi. Oggi, per fare degli esempi, non so, in Germania ne servono 7, in Danimarca 6, in Belgio 12, nel Regno Unito 4-6 mesi, per cui con questa nuova direttiva che il nostro paese ha recepito, ha utilizzato per ILVA, noi imponiamo dei limiti di tempo europei. E questa era Amalia Sartori al microfono di Anna Marino. La politica di austerità messa in atto dai governi europei ha finora soltanto incrementato la recessione e aumentato la disoccupazione, penalizzando soprattutto la donna, categoria debole per eccellenza. Così Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento europeo, nel corso di un seminario che si svolge oggi all'Eurocamera di Bruxelles. I cittadini europei sono convinti che le organizzazioni non governative possano svolgere un ruolo rilevante in Europa per influenzare le decisioni del livello politico. Emerge questo dai dati dell'inchiesta Eurobarometro sull'impegno dei cittadini per la democrazia partecipativa. I cittadini, spiega l'inchiesta, ritengono che le organizzazioni della società civile abbiano più probabilità di influenzare il processo decisionale a livello locale e nazionale di quanto non accada a livello di Unione Europea. Bene, con questo è tutto. In regia Roberto Scaltritti, Gigi Donelli al microfono. GR Europa torna domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.